Radio 24 Reportage. Il turismo ai tempi della sharing economy. Il caso Airbnb di Maria Luisa Pezzali. Allora, Louise di St. Louis, mi resta una sola domanda. Ok. Come può una ragazza disoccupata con tre coinquiline permettersi una patchwork denim bowlie di Louis Vuitton? L'ho affittata. Borsa, in prestito o rubarla? Ma come il noleggio dei DVD? Come posso non saperne niente? Resta con me, ti sistemo io. Era il 2008, il possesso iniziava a diventare fuori moda e anche un film come Sex and the City iniziava timidamente a raccontarlo. Erano gli esordi di un modello, quello della sharing economy, destinato a rivoluzionare in pochi anni mobilità e turismo, il nostro modo di spostarci e viaggiare. Lo testimoniano i numeri delle due realtà simbolo, Uber, l'app che trasforma chiunque possiede un'auto in un autista, e Airbnb, che mette in contatto diretto chi offre e chi cerca un posto per alloggiare, da un divano, una stanza o un intero appartamento a ville, castelli, case sugli alberi. Airbnb conta oltre 2 milioni e mezzo di case in 34.000 città nel mondo, 191 paesi per 100 milioni di ospiti. È valutata a 30 miliardi di dollari, molto più del gruppo Hilton. Non a caso del resto si dice che rappresenterà per il turismo dei prossimi anni una rivoluzione analoga a quella degli Holiday Inn negli anni 50 e 60. Si calcola che la piattaforma di home sharing, leader nel mondo, copra ormai l'11% dell'offerta ricettiva di Parigi, il 10% di Londra. Nel 2015 nel nostro paese ha ospitato qualcosa come 3 milioni e mezzo di turisti. Matteo Stefanelli, Country Manager Airbnb Italia. Siamo il terzo paese al mondo in termini di annunci condivisi sulla piattaforma. Siamo a più di 250.000 annunci condivisi dagli italiani. Abbiamo appena annunciato l'arrivo di un nuovo prodotto da parte di Airbnb, che è quello delle esperienze. Abbiamo appena lanciato Firenze come prima città tra 12 città in tutto il mondo. In Europa soltanto Parigi, Londra e Firenze hanno partecipato al lancio, e adesso espanderemo le esperienze anche a Roma e nel resto della Toscana. Quindi un mercato che sta veramente crescendo molto velocemente e su cui stiamo puntando anche per i prossimi step dell'azienda, e quindi lanciando questo nuovo prodotto. It's always more fun to share with everyone. Analogamente alla guerra che ha contrapposto Uber ai taxisti, però, anche Airbnb, sottraendo quote agli operatori tradizionali, è stata messa sotto accusa in molte città. A New York, la città più remunerativa per la piattaforma, una nuova legge prevede multe salate per chi affitta interi appartamenti per meno di 30 giorni. In Europa hanno deciso il giro di vite Barcellona, Amsterdam, Berlino e Londra. Il problema è la commistione tra affittacamere professionisti, agenzie bed and breakfast e i privati. In Italia Federalberghi chiede a governo e amministrazioni locali un segnale importante contro quelle che definisce le degenerazioni della sharing economy nel turismo. Il direttore generale Alessandro Nucara. Noi non siamo né contro i bed and breakfast né contro Airbnb, anzi moltissimi nostri soci sono bed and breakfast. Noi siamo contro coloro che esercitano l'attività abusivamente e siamo contro Airbnb nel momento in cui, per favorire il proprio modello di business, lascia passare di tutto senza nessun controllo. Quindi l'obiettivo qual è? In questo grande mercato in cui c'è posto per tutti, deve essere un mercato in cui si lavora tutti con le stesse regole. Oggi abbiamo su Airbnb oltre 222.000 annunci censiti ad agosto. Le locazioni risultanti all'Istat sono molto molto molto meno della metà. Se vediamo la realtà dei fatti, vediamo che qui di sharing economy non c'è proprio nulla, si tratta di attività economiche a tutti gli effetti. Parliamo di gente che ha 50, 100, 200, 300 appartamenti in locazione, quindi non è la vecchietta che sta rotondando la pensione. Non è un'attività occasionale, i numeri ci dicono che si tratta di attività esercitate per 6-7 mesi l'anno almeno. non è attività in cui si condivide l'esperienza con il proprietario di casa, qui di sharing non c'è niente, nel 70% dei casi parliamo di appartamenti vuoti che vengono affittati così come sono. Quindi questa favoletta dell'economia della condivisione è stata smentita dai fatti, una menzogna, una promessa tradita che inganna il consumatore. Lo inganna due volte, la prima volta quando gli promette di vivere un'esperienza vera e non è così, e la seconda volta quando gli offre un prodotto che non è più delle volte rispondente agli standard minimi che devono essere richiesti. Amsterdam ha legiferato, Amsterdam ha detto non più di 4 persone per volta e non più di 60 giorni l'anno. New York ha legiferato, New York ha detto chi affitta per meno di 30 giorni lo può fare ma si prende una partita IVA. Berlino ha detto chiaramente che questo fenomeno sta espellendo i cittadini dai centri abitati, ha messo una multa di 100.000 euro per chi fa affitti brevi senza avere la licenza. Qui nessuno vuole vietare niente a nessuno. Nessuno vuole mettere sotto accusa chi ha 10, 20 o 50 appartamenti. Non c'è un pauperismo da parte nostra, non c'è l'attacco a chi esercita legittimamente l'attività, c'è la legittima difesa rispetto a chi sta sul mercato falsando le regole, a chi non paga le tasse. Se vogliamo essere un grande paese turistico dobbiamo darci le regole e rispettarle. Qui le regole sono lacunose e nessuno le rispetta. Dopo la bocciatura della cosiddetta norma anti-Airbnb nella legge di bilancio, a gettare un sasso nel vuoto normativo, di questo si tratta, è intervenuta la Regione Toscana con l'approvazione del nuovo testo unico sul turismo. Nel caso si affittino più di 2 appartamenti di proprietà o vengano stipulati oltre 80 contratti annui, scatta la definizione di impresa con i relativi oneri fiscali. Una soluzione che Federalberghi boccia come insufficiente, annacquata e deludente e che Airbnb ritiene invece un ottimo passo avanti. Ancora Stefanelli. Crediamo che ogni città ovviamente abbia esigenze diverse, quindi sia giusto che ogni città dia una risposta diversa. Noi entriamo in questo dibattito e cerchiamo di essere al fianco delle città. Abbiamo visto come in alcune città si sia scelto di differenziare chi affitta in maniera professionale e chi lo fa invece in maniera occasionale, guardando il numero di giorni, come hanno fatto per esempio Londra ed Amsterdam, con le quali ci siamo seduti al tavolo per insomma lavorare insieme a questo tipo di soluzione. Per l'Italia abbiamo visto l'approvazione di una nuova normativa a livello regionale in Toscana che guarda al numero di case condivise da parte degli host, da parte insomma delle persone, in maniera da stabilire chi affitta in maniera occasionale e chi affitta in maniera professionale. Noi crediamo che questo sia un grandissimo passo avanti, siamo tutti al corrente degli attacchi magari da parte della lobby alberghiera, eccetera. Però crediamo che questo sia normale. Dall'altro lato, noi siamo pronti a lavorare insieme per far sì che il futuro del paese, in termini di turismo, possa essere un futuro insomma dove sia l'ospitalità alberghiera che l'ospitalità extraalberghiera possano convivere. Crediamo che da un lato Airbnb abbia portato molta più trasparenza e molta più visibilità rispetto a quello che avviene sul mercato, quindi diciamo che fondamentalmente avendo tutto tracciato e avendo tutto quanto online grazie alle piattaforme in qualche modo si sia fatto un passo avanti in termini di trasparenza. Dall'altro lato siamo veramente pronti a lavorare anche con l'ospitalità tradizionale, perché crediamo che debbano esserci regole più semplici, più chiare per tutti e non insomma in qualche modo cercare di combattersi per far sì che magari chi sta andando più veloce in un certo momento debba essere penalizzato. Noi crediamo che si possa collaborare e si possa in qualche modo lavorare insieme per il futuro del turismo in Italia. Say you want a revolution, well, you know. Intanto, mentre lo Sharing Economy Act, la proposta di legge sulla sharing economy che prima in Europa intende regolamentare il fenomeno, è ferma a Montecitorio, la Liguria ha deciso di siglare un accordo commerciale con Airbnb. La piattaforma metterà a disposizione i dati sulla presenza di turisti presso gli host e fornirà loro tutte le informazioni di promozione turistica della regione. Secondo le stime della società di consulenza PricewaterhouseCoopers, il giro d'affari della sharing economy è destinato a crescere fino a 335 miliardi di dollari nei prossimi 10 anni, quando si raggiungerà la piena maturità del modello. In molti segmenti, dicono gli analisti, gli operatori della sharing economy avranno superato i player tradizionali. Le piattaforme per i servizi domestici e i servizi professionali a richiesta cresceranno più di quelle per il turismo, così come quelle per il prestito e la raccolta fondi tra privati. Le prossime battaglie, dunque, facile prevederlo, avranno a che fare con i diritti dei lavoratori e ne ha già dato un assaggio il settore della consegna di cibo a domicilio che abbiamo indagato in un altro reportage e poi il mondo del credito e dell'intermediazione finanziaria. Ci sono parole però che valgono più di mille scenari. In una recente intervista il fondatore di Uber, Travis Kalanick, neo consigliere di Donald Trump, ha detto: «Tutti credono che miriamo al mercato dei taxi che vale 100 miliardi di dollari. Sapete, ha aggiunto, quanto vale quello del trasporto in generale? 5 trilioni e mezzo». Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.